Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Ieri sera abbiamo parlato del progetto WASP, che mira a mettere a punto una mega stampante 3D alta 10 metri o giù di lì, in grado di stampare una casa a partire da terra e acqua o poco più. L'idea è che in questo modo si potrebbero realizzare case a costo quasi zero e riuscire quindi a dare una casa praticamente a tutti. Moltissime buone idee però naufragano per la mancanza di una strategia imprenditoriale in grado di realizzarle concretamente. Figuriamoci se queste idee sono dello stile salviamo il mondo. Ecco perché questa sera vi vogliamo raccontare il modello di business che sta dietro al progetto WASP. Ce ne parla l'ideatore del progetto WASP, Massimo Moretti, che è tornato a trovarci. Buonasera Moretti. Grazie, buonasera. Allora Moretti, come nasce e soprattutto come si alimenta questo progetto WASP? Sì, noi abbiamo fatto una scelta abbastanza interessante secondo me, perché noi praticamente abbiamo costruito delle stampanti che sono delle riproduzioni in scala della stampante grande che vogliamo produrre, e vendendo le stampanti piccole finanziamo il progetto della stampante grande. E invece con l'immagine che deriva dalla stampante grande, la visibilità che deriva dalla stampante grande, riusciamo a promuovere le stampanti piccole. Quindi si è creato una sorta di turbine virtuoso, dove con le stampanti piccole finanziamo il progetto, ma grazie al progetto poi riusciamo a vendere stampanti piccole. In questo modo riusciamo a crescere. Quindi più o meno cresciamo, ogni 4 mesi più o meno riusciamo a raddoppiare le dimensioni delle nostre stampanti. Ok, ecco, il prossimo step qual è? Ah, noi adesso stiamo facendone una stampante di 6 metri, sì, che è la nostra stampante, diciamo, di punta, sperimentale. E contemporaneamente stiamo lanciando delle stampanti che riescono a fare degli oggetti di grandi dimensioni, 40 cm per 60, quindi tutto il progetto WASP, che proprio il WASP Project ha come caratteristica una linea di stampanti che va di varie dimensioni. Senta, voi reinvestite, se non sbaglio, tutto per progettare la stampante più grande. Come nasce questa iniziativa? Dov'è che l'ha trovati? Dei soci? Adesso non so se ha dei soci così. No, questa iniziativa nasce come una specie... È un esperimento, voglio dire, anche umanistico, perché il concetto è: un gruppo di persone appassionate possono dar forma a un progetto così grande come quello di dare un contributo al problema della casa nel mondo senza avere alle spalle un reale finanziamento. E questo era il tema che ci siamo dati. Io sono convinto di sì, dove se si lavora sulla comunicazione e su un progetto condiviso e condivisibile, questo progetto crescerà, perché è un progetto bello, coinvolge persone. Così sta succedendo, insomma, ci sono persone che si coinvolgono spontaneamente, e poi vendendo invece le stampanti piccole queste persone riescono anche a avere un minimo di stipendio reale. È già un risultato di sti tempi. È interessante vedere questo aspetto, che magari se uno cerca il posto di lavoro fa fatica, se invece cerca di raggiungere il sogno così bello come grande traguardo, poi magari c'è anche un rientro del posto. Trova anche il posto di lavoro. Così è. Per chi volesse saperne di più, www.wasproject.it. Grazie Massimo Moretti. Buonasera. Una breve riflessione, insomma, prima di lasciarci. Stasera abbiamo cercato di trovare una possibile risposta a una domanda ben precisa. Si può prendere un'utopia e farne un'azienda in grado di realizzarla, questa utopia? Uno degli ultimi romanzi di Franz Schatzing, intitolato Limit, parla del progetto di un miliardario di coinvolgere altri super ricchi come lui nel tentativo di riportare l'uomo sulla Luna, aprirgli l'accesso al mitico Helio 3 per fornirlo di energia pulita e infine e lanciarlo alla conquista dello spazio. Per finanziare l'operazione il protagonista pensa bene di costruire un albergo super lusso per sceicchi e altri ricconi di livello planetario, a cui offrire a caro prezzo l'esperienza indimenticabile di un soggiorno sulla Luna. Leggendo il libro è difficile non pensare ai tentativi in corso da parte di varie aziende americane, come per esempio Virgin Galactic, SpaceX o Blue Origin, che stanno cercando di sviluppare il turismo spaziale. Viene in mente anche l'impresa di Craig Venter, che ha sequenziato il DNA umano più rapidamente di qualunque altro laboratorio di ricerca pubblico. Sono casi di aziende che sono diventate macchine da soldi ben prima di raggiungere l'obiettivo per cui sono nate. Che cosa hanno in comune questi casi? Tutte inseguono un obiettivo apparentemente irrealizzabile, ma il cui fascino è vitale, insomma, da tenere incollati su di sé gli occhi di tutto il mondo. Insomma, promettere di dare una casa a tutti, di salvare il mondo dalla fame o di portare l'uomo su Marte possono essere, oltre che grandi operazioni, insomma, di civiltà, anche grandi operazioni di marketing. E anche questo è uno dei paradigmi con cui l'innovazione avanza nel nostro tempo. Buona serata.